Il matrimonio. Comincia ad affermarsi nel XII secolo l'uso nuziale che conosciamo oggi e che prevede la presenza del sacerdote, che è figura ritenuta fino a quel momento non indispensabile alla celebrazione del rito. I matrimoni suggellano spesso alleanze tra famiglie importanti. E per questo sono occasione di sottolineare, anche attraverso gli abiti, il prestigio e il rango delle stesse. Non esiste ancora un vero e proprio abito degli sposi. Entrambi indossano l'abito più bello. Il paliotto. Il paliotto in esposizione sull'altare della Cappella di San Giorgio proviene dal Carroccio. In legno dorato, esso venne realizzato su indicazione dell'artista e capitano, nonché uno dei padri fondatori del Palio di Legnano, Emilio Guidi. Su di esso possiamo riconoscere le figure dei santi martiri anauniensi, Alessandro, ostiario, Sisinio, diacono, e Martirio, lettore. È una figura di un vescovo, forse San Virgilio o Ariberto d'Antimiano. Sisinio, Martirio e Alessandro erano nati in Cappadocia nel IV secolo e ancora giovinetti vennero mandati a Milano per essere istruiti alla fede del vescovo Sant'Ambrogio. Attratti dall'ideale missionario, furono inviati al vescovo di Trento, San Virgilio, che li destinò nel 387 ad evangelizzare l'antica regione Anaunia, l'attuale Valle di Non. Dopo 10 anni di servizio della gente della valle, il 29 maggio del 397 furono trucidati in un rito detto degli Ambarvali, durante una festa pagana di carattere agreste nella località di Mecra, ora San Zeno, dove era stata eretta una basilica a loro dedicata. Le reliquie dei tre martiri furono successivamente trasferite a Milano e custodite nella chiesa di San Simpliciano. A Sisinio, Martirio e Alessandro è legata una leggenda popolare, nata anche dalla coincidenza della loro morte con la battaglia di Legnano del 1176. All'intercessione dei santi martiri, le genti lombarde attribuiscono la vittoria di Legnano. Si narra infatti che nel giorno dello scontro tra le milizie milanesi e quelle del Barbarossa, tre colombe uscirono dalla chiesa di San Simpliciano, dove erano custodite le loro reliquie, e andarono a posarsi sulla croce del Carroccio, rimanendovi fino alla termine della battaglia.